Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina, in un paese nel quale chiunque voglia trasformare la realtà, prima o poi l'abuso d'ufficio se lo prende. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E lei continua a ripetere dietro una vicenda che c'è qualcosa di grosso. Io non lo so se c'è qualcosa di grosso o di piccolo. Per quello che mi riguarda non c'è niente. Cioè non so di che cosa stiamo parlando. Non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccia Gabriele, sa dormo dopo che non sa dei miei problemi, non sa di questi schemi, non sa poi capisero tu c'è potato. Perché quelli che collaborano con me sanno che c'è una regola fondamentale, che chi sbaglia per me è colpevole non una ma tre volte. Quindi non ho bisogno di chiarire niente, lo sanno tutti qua. Cosa triste, hey, dimentica di andare fuori per lavoro, le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro, zero padroni, gli ruberemo il trono. Ci può raccontare chi è Mastruzzi? Posso dirle quello che non è Mastruzzi, non è Winston Churchill, non è Camillo Benso di Caduto. Quella linea che divide nord e sud, guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro e son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. Perché per fare questo lavoro che stiamo facendo noi devi sputare l'anima e te ne torni a casa la sera senza aver avuto il tempo neanche di mangiare, sentendoti il sangue in bocca, lì, cioè stando nella situazione nella quale avverti che lì ti scoppia il cuore. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Oh, amici, De Luca, De Luca, il mio accento si deve la vede così, la strage dei rifiuti, ha trovato il colpevole, se mai c'è qualcosa di cui parlare, perché per lui non c'è nulla. I giornali sono ancora pieni a dire Renzi in silenzio, Renzi forse lo scarica, Renzi di qui, Renzi di là, ma lui ha trovato il colpevole. È il suo ex collaboratore, capo della segreteria politica, vicepresidente del PD regionale, Mastursi. A un certo punto in questa web intervista che ha fatto col Mattino ha detto: Mastursi ha sbagliato, infatti non c'è più. Lavorativamente parlando, ma anche se non ci fosse proprio più e fosse nel cielo, non sarebbe una grande perdita. È così De Luca, eh? È così, via! Fuori! Dimentica di andare. In realtà c'è questa intercettazione di questo Manna che, secondo l'accusa, brigava per avere una posizione alla regione Campania, che a un certo punto a fine agosto dice: io non divento direttore generale e lui non diventa presidente della regione. Ora faceva millantato credito, si bullava un po' con gli amici, oppure quando dice bisogna rispettare i patti perché io la mia parte l'ho fatta. Questo Manna è il marito del giudice che ha deciso sul caso De Luca, Comunque De Luca è così, a un certo punto ha anche aggiunto: chi crede di fare assedi riceverà secchiate di olio bollente in testa. Amici, è venerdì. È venerdì, questa è una buona notizia. Una buona notizia. Stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè. Ebbene sì, è venerdì. Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. Si chiude la 132esima settimana decisiva per l'abolizione delle province con un nulla di fatto. Pazienza, la 133esima è dietro l'angolo. E voi potete dirci che volete al 349-238-6666 via sms, via whatsapp. Volete anche farlo via whatsapp. Adesso mi hanno messo qui davanti, c'è anche whatsapp, eh? Mandateci i whatsapp. Non chiamateci, tanto non rispondo in diretta. Whatsapp, dai, su, fate bravo. Allora, vogliamo subito aprire il Parlamento. Il caso De Luca tiene banco ancora, ma ci sono altre cose da dire, come per esempio le spese dell'abate. Vado a prendere un caffè, ex, quindi se mai ci vediamo. Abate di Monte Cassino, 1.100 euro, 1.100 euro in profumeria. Li paghiamo noi e con il fotto per mille, l'otto per mille, con l'otto per mille. Vabbè, che dobbiamo fare? Questo è il dato di fatto. Saluto l'avvocatone, il nostro presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Eccoci buongiorno. Qua, avvocato, oggi dobbiamo anche chiederle una cosa su Belen, eh? Lo sai che dobbiamo chiedere una cosa su Belen? Ah, che bello, sono contento. Anche una cosa su Belen che abbiamo scoperto. Mi ricordo la farfallina. Ah, la farfallina di Belen, attenzione. Attenzione, momento hot. Bella, eh? Momento hot qui a 24 mattino. Saluto anche, caro avvocato Rienzi, da un Carlo a una Carla, la mitica Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente Protezione Animali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo nominato la farfallina di Belen, quindi ecco subito Carla Rocchi. Buongiorno. Se la ricorda Sanremo la farfallina? Sì, me la ricordo. Come no? Anche quella è un animaletto da proteggere, la farfallina. È un tatuaggio carino. Infatti. Abbiamo visto tante differenze. Invece quello è un tatuaggio così carino. Infatti, va bene. Allora, saluto a tutti quelli, ecco basta, ho detto di WhatsApp e parte un ciao Milan, ciao a tutti quelli che ci scrivono anche su WhatsApp. Allora, il caso De Luca, avvocato Rienzi. È difendibile? Per bella questa presa di distanza dal proprio collaboratore di De Luca, eh? È colpa del collaboratore che non c'è più. Ma io penso che non si può giudicare a priori il comportamento. Noi devo dire che abbiamo, come già da tempo, chiesto al prefetto di sospendere De Luca dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ma come abbiamo fatto per chiunque altro fosse incappato in una legge vigente che devono cambiare, perché Severino. Non gli piace, la cambiassero, non c'è nessun problema. Ho capito, ma avvocato, c'è stata la pronuncia appunto del giudice Scognamiglio, vedremo se questa pronuncia è fatta bene, che ha sospeso questa. Accertato, noi non possiamo anticipare i processi sugli assassini e i morti, i bambini, le ragazze, le cose in televisione. Adesso facciamo alla radio un processo noi a questa persona sulla base di intercettazione. No, questo se lo deve fare la magistratura. Il problema è la Severina, non c'è, la Corte ha escluso che si possa quindi ritenere incostituzionale dei magistris doveva andare via, ma è stato assolto e quindi non va via giustamente, però ecco, prima avrebbe dovuto andare via perché era stato assolto. Lui deve andare via perché ha quel problema che lo fa rientrare nella Severino. Ho capito, ma deve andare via. Scusi, ha fatto ricorso, c'è stata la sospensiva della decadenza. No, ma dopo la Corte Costituzionale quella è decaduta, perché la sospensiva era legata al giudizio di incostituzionalità della legge. Vabbè. La Corte ha detto no, la legge è costituzionale. E adesso ci sarà una pronuncia, ci sarà una pronuncia, manca. No, l'efficacia della sospensione del tribunale era legata alla questione di illegittimità. Quindi indipendentemente da che se è comprato questa sentenza o no, e se è aggiustato o no. Questa... Poi lo vedremo alla fine. Cioè, se è comprata ci sarà un reato con un andrà in galera, non lo so, è un crimine grave, gravissimo. Ecco, giudicare le persone prima non va bene, qui c'è una situazione di decadenza dovuta alla legge, una legge che, ripeto, non piace più a nessuno. Non piace i politici nessuno. Prima fanno le leggi, poi non gli piace. Che dobbiamo fare? Certo che però il caso del PD è interessante. Carla Rocchi, lei che è stata proprio anche nelle stanze del potere, sì, un po' sì, dai, sottosegretario, no? Se non sbaglio, ha fatto un po', no? Parlamentare. Ecco, il PD in questo momento, Renzi, perché Renzi sta in silenzio e dribbla la questione? E che deve dire, poveromo? Che deve dire? Capitano due di fila, uno meglio dell'altro, che poi dicono sempre le stesse cose. Vi ricordate ormai il compianto Marino? Che diceva, gli scontrini non è colpa mia, sono stati i miei collaboratori. Sì. Poi arriva quest'altro elegantone che dice, il mio, niente, io non c'entro niente, è il mio collaboratore. Sì. Ho imparato una cosa, che quando si ha un collaboratore che sbaglia, la colpa è sempre di chi ha preso il collaboratore. Ah, dice. Non è mai del collaboratore, perché chi comanda in qualche modo si assume le responsabilità. Invece qui è scomparso, e se anche scomparisse del tutto farebbe molto elegante. Sì, sì, sento anche quello che è scomparso. Sì, esatto. Tanto ha detto, tanto si starà già toccando ferro, appunto, quindi... almeno quello. Oh, mannaggia. Ma quindi che dovrebbe fare De Luca? Cioè la sfangherà questa, perché avete sentito, lui sempre col piglio. Ha una carta fondamentale dalla sua. Se fanno fuori De Luca, il PD si dimentica di vincere in Campania per l'eternità. D'altronde, se tengono De Luca, io non so se mai più il PD vincerà in Campania, perché poi esiste anche un dato fisiologico, la presentabilità delle situazioni. Sì. Adesso con quale... Io mi domando, perché dice, perché Renzi tace, che dovrebbe dire? Che dovrebbe dire? Il segretario del PD è qualcosa. Lo so, ma manda avanti tutte le sue seconde file, terze file, a dire... Quando c'è una situazione imbarazzante... Queste creature sante che vanno in televisione dicono tutti la stessa cosa, aspettiamo di vedere il corso finale delle cose. Ci sono situazioni che parlano da sole, cioè, vabbè, io non entro nel merito del reato. Sì. E che cosa prende? Cosa parla da solo? Il modo. Questi sono incartati, guardi che il PD è specialista nell'incartarsi, in storie di uomini e si è incartato. E si è incartato nell'Italicum, ne vogliamo parlare? Adesso che ci fanno con l'Italicum? Che le proporzioni stanno cambiando, che ci fanno? Voglio dire, ci vorrebbe un po' più di, come posso dire, di autoriflessione, un po' di tranquillità, meno affermazioni, un po' più di sicurezza vera nelle cose che si fanno. Ah beh, la sicurezza, cioè, hanno trovato uno qua, De Luca, che la sicurezza ce l'ha. Ma di che stiamo parlando? Di niente stiamo parlando. Renzi dice, continuate a farmi domande, ma è il nulla è successo. Ma a me sembra imbarazzante che si voglia fare il ponte sullo stretto di Messina, scusate. Anche con l'acqua quello. Che manca a Messina, ma non solo l'acqua, ma avete letto che si intascavano i soldi come in molti comuni per le commissioni per non fare niente, con le intercettazioni ambientali dei consiglieri che dicevano, io voglio questa cazzo di indennità, non me ne frega niente delle commissioni, tanto non si fa niente, anzi dice non si fa proprio un cazzo nelle commissioni. Invitiamo i messinesi a costituirsi parte offesa in questi processi e chiedere soldi, che è l'unica possibilità di dare una lezione a queste persone. Insomma, mica se li possono intascare solo come quelli che partecipano alle commissioni un po' di soldi. Cioè, che fate ricorso voi del Codacons? Sì, stiamo organizzando che tutti i messinesi possano andare dal giudice e dire, io come cittadino di Messina ho avuto un danno da questa situazione, da questi signori in cui si vedono le foto, i gettoni facili, eccetera, sì, eccetera, sì. E quindi voglio essere risarcito. Quindi è un'azione di classe, diciamo così, in sede penale, che va fatta, ripeto, perché se non si toccano i portafogli qua nessuno fa viene niente, punito, cioè non esiste la punizione niente. In questo paese, non so se mi spiego. Mi sembra giusto. Tra poco però me lo dice di Belen, perché questa storia di Belen è veramente, veramente incredibile. Sì, lì si intascavano i soldi delle commissioni, però pensate il contrapasso, Carla Rocchi. Adesso i consiglieri comunali dovranno andare a firmare il registro un minuto prima della commissione e un minuto dopo alla presenza dei vigili urbani. Ma che bella cosa. Ma voi siete sicuri che, questo, che non si troverà un escamotage per vabbè, posso. Ne riparleremo se saremo ancora insieme, se ci capiterà tra qualche mese. Avranno trovato un sistema, esce una manuzza elettronica, esce una zia vestita da consigliere. Guardate, questo paese è inemendabile. È inemendabile. Non c'è modo. Troveranno il modo per ma dai, ti offro un caffè al vigile urbano, mettimi tu la firma. Allora, siamo senza speranza. Ma Renzi, cosa devono fare i messinesi? Come possono fare? Proprio diamo lo strumento tecnico. Hanno due ragioni, due motivi per agire e per i danni. Quello dell'acqua, che è una cosa veramente folle. E questo dei gettoni. Cosa possono fare proprio? Si svegliano questa mattina, ci stanno ascoltando, dice voglio fare causa, che devo fare? Sul nostro sito, riempiono il loro modulo di adesione, noi portiamo tutte le adesioni al giudice. Sì. E quando ci sarà il rinvio a giudizio dovranno essere considerate parti offese e potranno chiedere un risarcimento. Codacons.it? www.codacons.it Purtroppo è l'unica cosa, l'acqua tanto non gliela ridanno, quindi, almeno i soldi l'acqua non ce l'avete a casa, ma magari i portafogli gonfi, magari se potete ripagare l'acqua minerale che state comprando così poi ve la comprate, non so, dovrete corrompere qualcuno per avere l'acqua, però già avete i soldi per corrompere qualcuno e perlomeno la soddisfazione di fargli cacciare un po' di soldi per l'Italia. Pure noi abbiamo ottenuto 3 milioni di risarcimento per gli azionisti. Mannaggia. Quando c'è una malefatta c'è questa possibilità di agire civilmente per i danni anche nel processo penale. Adesso stiamo aspettando Mafia Capitale, il 17 il tribunale decidere se i cittadini hanno diritto di chiedere i danni per tutto quello che hanno combinato sugli appalti pubblici a Roma. E allora vediamo questo. Allora andiamo al traffico, che poi capiamo che ha fatto con Belen Carlo Renzi. Attenzione, gossip clamoroso, tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Ehi, Alessandro, sei un bel golosone delle notizie, Sta succedendo che di nuovo prendono il bordello del ponte Sicilia-Reggio Calabria. La devono smettere, il ponte non lo vogliamo, ci sono le navi e attraversiamo con le navi. Non ho mai sopportato quel giornalaccio chiamato Unità e ora devo pagarne i debiti. Cose da pazzi! De Luca, superbo, superlativo. Dopo di lui il vuoto. Ad alcuni piace così col nervo risoluto, Vincenzo De Luca. Noi siamo invece con Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, e Carlo Renzi, presidente del Codacons, che ha attaccato Belen. Io ho attaccato Belen. Non avete fatto voi del Codacons? Ma non è che abbiamo attaccato Belen. Allora, no, aspetta, succede questo. Ieri Selvaggio. Mi piace. Volevo dire nel senso che non ha fatto niente. Il problema è l'esercizio pubblico. Spieghiamolo. Allora, ieri Selvaggio. Momento di alto giornalismo. Selvaggio Lucarelli e Gianni Morandi si incontrano nel locale di Belen a Milano e Belen li fa cacciare. Cioè, avvicina una cameriera, si avvicina a Gianni Morandi e Selvaggio Lucarelli per dire la proprietaria non gradisce che questa signora Selvaggia Lucarelli sia seduta qui, e le fa cacciare e dice di andare via, insomma. E voi avete fatto ricorso, ma ricorso di che? Dunque, c'è il testo unico di pubblica sicurezza che prevede che non si può impedire l'ingresso di un cittadino, chiunque sia, in un esercizio pubblico. E infatti non gliel'hanno impedito, gli hanno detto gentilmente di uscire. Ma non si può fare questo non è consentito. Io non so perché poi ce l'hanno, fra di loro non me ne chi frega se proprio. Frega, ma chi se lei dice che ha offeso il figlio, deve fargli una querela, gli deve fare una denuncia, ma non è che ma non e quindi che ricorso avete fatto? Cioè, no, che abbiamo cosa? Detto che è stata violata il testo di pubblica sicurezza e per cui non può tenere aperto il locale se continua ad avere una sanzione, una multa. Una multa al locale volete? È previsto, lo fanno a tanti, cioè se. Quando cacciano un down o un una persona di colore da un locale, succede il finimondo, l'hanno cacciato giustamente. Cacciano no? Selvaggio Lucani che Gianni Morandi. Un italiano con la faccia bianca, eccetera, lo può fare. Non c'è niente di differente. Ma Carla Rocchi, stia attenta, perché guarda che Rienzi fa esposti mica male. L'ha mai incrociato Rienzi con esposti, magari su. No, non ci siamo mai contrastati, sono campi un po' diversi. Noi facciamo la nostra parte giudiziaria per i casi che ci riguardano, ma io rispetto il lavoro di tutti, penso che anche Rienzi rispetterà il nostro. Sì, sì, certo. C'è qualche notizia dal mondo animale che ci deve raccontare, qualche nuova chicca che non sappiamo? Ma guardi, dal mondo animale c'è questa notizia che amara, e al tempo stesso c'è questo gentiluomo di veterinario che va a caccia il leone. Sì, il veterinario, è vero. Il veterinario di Torino, di provincia, che ammazza il leone. E che ne farebbe lei? Ma si mette lui in rete, perché dice: io ammazzo un leone, faccio questa cosa qua. Lui si mette in rete convinto anche di essere un figo, perché poi questi che si mettono in rete si mettono in posa, l'ha visti come si mettono? Vabbè, ha ucciso il re della foresta, quindi lui è il super re, è il super re della foresta. E lui uccide il leone, che è infinitamente più bello di lui, si mette in posa con questa faccia che non voglio commentare. La commenti. Allora guardi, esiste, io penso, visto che quest'anno stanno rivalutando Lombroso in qualche modo, perché Lombroso diceva che la faccia è legata al comportamento, era quello che studiava i casi di criminalità. Sì, come no, certo, no? Lombroso, un grande. Io non dico niente, guardate costui, guardate il ritratto di costui, poi dopo essersi messo in mostra e dopo aver detto che amare gli animali e ucciderli, andare a caccia non è incompatibile, non vede contraddizione, pensando di essere sempre un figo, e lì la tragedia non è solo quello che ha fatto, è che lui pensa di sé di essere un figo, è stato naturalmente sputazzato dal mondo. Ma che dovrebbe fare? Dovrebbe essere radiato dai veterinari? No, guardi, se l'ordine vuole, noi abbiamo chiesto un provvedimento, ma la vera cosa che gli è capitata per lui in attesa è che lo stanno sputazzando tutti. Perché lo stanno sputazzando? Perché lui si è messo in rete. Se lui trova questo gusto di andare a caccia, a parte che i veterinari fanno un giuramento quando cioè un veterinario non può fare il cacciatore, secondo ma me. Secondo lei, se io facessi, facciamo il, no, dico io, penso una persona che facesse la maestra d'asilo pubblico e di notte facesse esercizio di pubblica, come posso dire, pubblico meretricio, non è che la legge non glielo consente se non induce alla prostituzione, ma le sembrerebbe coerente? Dice, poco coerente. Non solo, ma quest'uomo, lui era, perché l'hanno mandato via per fortuna, responsabile sanitario di una struttura che ospitava cani pagati con soldi pubblici. È vero. E allora lì non ci siamo davvero, secondo me. Comunque intanto è stato mandato via, quindi la prossima volta impara a mettersi in posa. Abbiamo sistemato anche il veterinario di Torino. E mi devo fermare qui, ringraziando Carla Rocchi e Carlo Rienzi. Ci faccia sapere se fate avere una bella multa al locale di Belen, così aumentiamo il gossip. Aumentiamo il gossip, che devo fare? Se no, codacons.it, amici di Messina, andate lì che vi gonfiate il portafoglio se il rubinetto è a secco. Grazie, ci sentiamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, è scoppiato WhatsApp, basta, non ci mandate più messaggi al 349-238-6666, perché a questo numero c'è anche WhatsApp. E allora adesso vedo qua WhatsApp, tutti mi hanno scritto adesso. Carlo Fieni da Hong Kong, dicendo: vi seguo da Hong Kong, finalmente WhatsApp, posso partecipare a qualche discussione, evviva! Salutiamo Hong Kong, salutiamo Carlo che ci ascolta da Hong Kong. Sì, potete mandarci messaggi WhatsApp anche al numero consueto. E che dire, oggi avremo ospite il sindaco di Messina, Renato Accorinti. Avremo ospite anche Yoram Gutgeld, il capo della Spending Review in Italia. Siamo qui insomma con Oscar Giannino, piatto ricco, e alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 13. Venerdì 13, faccio fatica a dirlo, venerdì 13 novembre. Bene, anche il compleanno di mio fratello Giovanni, auguri, è venerdì 13. Allora, il Sole 24 Ore apre sull'attesa sui tassi americani, pesa sulle borse, corsa ai bond UE, questo è il titolo di prima pagina. Mentre la vicenda De Luca tiene ancora banco per Repubblica, se De Luca non mi nomina perde la regione. Questa è una delle intercettazioni del marito della giudice indagata. Libero le carte che accusano De Luca. Il Fatto Quotidiano mette invece Renzi incastrato da De Luca, se lo caccia il governo rischia. Renzi incastrato da Berlusconi, nel Nazareno via La Severino. Per il Giornale addirittura Renzi come Schettino, in fuga dai suoi guai. Il Corriere della Sera apre invece su questa vicenda di cronaca, ancora da chiarire almeno nelle motivazioni. Accoltellato ebreo, paura a Milano. Era in abiti tipici degli ortodossi, il timore della comunità che sia una emulazione dell'intifada. È successo ieri sera a Milano. La Stampa, la centrale europea dei jihadisti, arruolava combattenti dall'Italia. Il Messaggero invece, Roma, dossier shock di Gabrielli, mafia capitale, la relazione ad Alfano, il Campidoglio ancora inquinato nella gestione Marino. Allora, spendere meno, spendere meglio è invece il titolo dell'Unità. La spesa corrente è scesa di 20 miliardi e ne parleremo anche con Yoram Gutgeld. Voglio proprio partire dall'Unità, la vicenda di Messina, perché Erasmo D'Angelis, che è il direttore, va a Messina per la vicenda dell'acqua mancante. È un bel reportage che vi segnalo, prima pagina dell'Unità. È un guaio grosso, anzi grossissimo. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che non smetto di ringraziare, mi ha detto che questa è la più grande emergenza degli ultimi anni in Italia e io non ci dormo la notte, aggiunge. Quante notti e quanti giorni sono passati senza vederla scorrere dai rubinetti? 19. Una tragedia. A quando il miracolo della ricomparsa dell'acqua a Messina? Domenica, risponde il capo della Protezione Civile, dovremmo farcela a far arrivare 600 litri al secondo. Però non lo scrivere. Meglio essere prudenti avendo a che fare con quell'acquedotto franato insieme alle montagne in dissesto da sempre. Appuntamento allora per i 240.725 abitanti di Messina col fiato sospeso a domenica, 22esimo giorno di sete. Questo infatti è il titolo dell'Unità Messina, 20esimo giorno di sete oggi. Un racconto, un resoconto, una storia che scrive il direttore dell'Unità, che storia, che sembra uscita dalle cronache del secolo scorso, da un'area del pianeta Terra ancora in via di sviluppo. Non si era mai vista una grande città a secco per 3 settimane. Ed eccola qui, Messina, raccontata sull'Unità in prima pagina e poi a pagina 7 continua il reportage. Ecco, voi mettete, voi messinesi, ma non solo, io cerco di calarmi in questa situazione che effettivamente sembra provenire, scusate, non è un'offesa, dal terzo mondo, eppure è realtà in Italia, e mettetevi poi nei panni di un messinese che legge le cronache di quello che è successo in consiglio comunale ieri. Indaga la procura di Messina i furbetti del gettone. Consiglieri comunali è un gran classico che partecipavano a 10 secondi delle commissioni. Andavano lì, firmavano, stavano 30 secondi, 40 secondi, 10 secondi e andavano via e incassavano così 30, 40, 50 euro di gettone di presenza. 22 consiglieri indagati. Per 12 di questi è stata disposta una sorta di DASPO, quello che si fa per i tifosi violenti allo stadio, cioè dovranno firmare il registro con i vigili urbani che controllano, obbligati a lavorare. Sono stati intercettati, come racconta Alessandra Ziniti a pagina 26 di Repubblica, intercettati a intercettazione ambientale. 16 gennaio 2015, le telecamere della Digos piazzate in una delle sedi di Palazzo Zanca riprendono i lavori della nona commissione. Sono le 10:10 del mattino. Ci sono seduti attorno al tavolo 9 consiglieri, ma sul foglio di presenza è attestata la presenza di 20 firme. Gli 11 assenti in quella sala sono rimasti pochi minuti o pochi secondi, come Carmela David, ripresa, entra alle 9.44 e 12 secondi ed esce alle 9.44 e 48 secondi. Ne sta lì 36 e tutto ciò le vale un gettone di presenza di 56 euro. Ed ecco allora che indaga, c'è tutto l'elenco, viene citata lei, ma ci sono tutti i consiglieri indagati per gettonopoli. Messina, in consiglio comunale le presenze le terrà la polizia, titolo della Stampa. E ancora, Mario Giordano sul Libero, Messina secco e i consiglieri rubano 1 milione di euro. Città in allarme idrico, i politici si inventano riunioni fittizie per arraffare il gettone. Ah, ecco, mettetevi nei panni di un cittadino di Messina. Mamma mia, mi stanno arrivando centinaia di WhatsApp. Cosa devo fare da Shanghai? Saluto da Shanghai un altro ascoltatore. Mo adesso io devo leggere i giornali, non è che posso dare retta, avere tre occhi, guardare con due giornali e col terzo occhio guardare WhatsApp. Però sono vicino a tutti voi, al 349-238-6666, mandateci WhatsApp, non chiamate perché non è difficile anche rispondervi in diretta, non lo farò. Però insomma, andiamo avanti, spese pazze. Oh, le spese pazze di Monsignor Pietro Vittorelli, ogni giorno viene fuori qualche particolare in più. L'ex abate di Monte Cassino che si è fottuto bellamente, secondo l'accusa, 500.000 euro anche dell'8 per 1000, della carità, soldi dei poveri. Tutte le spese dell'ex abate. Fiorenza Sarzanini racconta che ha speso anche 1.100 euro in profumeria, oltre a vestiti, oltre a cene. I conti sono ben dettagliati anche da Valentina Errante sul Messaggero a pagina 15. Era la grande bellezza, la vita di Pietro Vittorelli. Sentite un po' qui che spese. Pernottamento all'Hotel Capitol, 630 euro. Poi nella boutique di Ermenegildo Zegna a Milano spende 750 euro in abiti. Il giorno successivo 299 per altri vestiti. Il 21 aprile 2014 torna all'Hotel Capitol, 524 euro di spesa. Il 25 aprile va a Londra al Sushi Samba, 690 euro di cena. L'estate del 2014 per l'abate deve essere indimenticabile. Il 23 luglio a Roma, cena al ristorante Antico Arco, 421 euro. Torna a ottobre a spendere 1090 euro alla Maison Gucci. Il 4 febbraio 2013 270 euro al ristorante. Il 26 a un altro ristorante 346 euro. A marzo 2013 vola in Francia, alloggia in un hotel, costo 2.497 euro, e così via, e così via. Valentina Errante racconta le spese dell'ex abate di Monte Cassino. Oh, questa non è la notizia che mi ha fatto più arrabbiare. C'era ieri sul quotidiano La Nazione, oggi viene ripresa dagli altri giornali, una notizia che non mi fa neanche arrabbiare, mi fa, non lo so, riflettere sicuramente. È la notizia che proviene da una scuola di Firenze, una scuola elementare, dove qualche buon tempone o qualche brava persona, e lo dico ovviamente ironicamente, ha pensato bene di vietare una visita a tutti gli studenti di una classe. La visita a Palazzo Strozzi a Firenze, alla mostra Bellezza Divina dedicata al rapporto tra arte e sacro, perché ci avremmo trovato un po' di crocifissi e probabilmente questi simboli religiosi cristiani avrebbero urtato la sensibilità di chi cristiano non è e cattolico non è. Ah, io quando vedo queste cose vorrei scambiare due chiacchiere con l'educatore, lo metto tra mille virgolette, o il dirigente che ha preso questa decisione. E così però la notizia finisce su tutti i giornali. Chagall vietato ai minori, l'assurda tolleranza estremista. Caterina Soffici sul Fatto Quotidiano. Per venire incontro alla sensibilità di famiglie non cattoliche, con questa motivazione annullata la gita di classe alla mostra di Palazzo Strozzi Bellezza Divina. E succede alla scuola elementare terza elementare dell'istituto Matteotti di Firenze. Salta la gita, troppi simboli religiosi anche sul giornale. Offendono l'Islam, capolavori vietati alle scuole sul Libero. O Repubblica, quell'arte sacra turba i non cattolici. Bufera sulla scuola che vieta la mostra. Ah. Andiamo all'articolo che mi fa tenere le mani sul volante, anzi a voi, a me sul microfono, mani sul volante per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Questo è davvero forte, ve lo dico. È una decisione di 3 giudici a Genova. Picchia la moglie per 24 anni, il giudice dice non c'è colpa. Una donna, racconta Andrea Rossi sul Secolo XIX, una donna che dopo 24 anni di violenze, angherie, più volte mandata all'ospedale dal marito che tornava spesso ubriaco, lei ha sopportato per anni, alla fine si è decisa a divorziare, a chiedere un risarcimento danni, ma il giudice stabilisce che in qualche modo la donna, di fatto in questi 24 anni, non denunciandolo mai, ha tollerato in qualche modo la condotta del marito. Tollerato, subito, certo, non avrà avuto la forza di denunciare, non avrà avuto il coraggio di andare avanti, ma per questi motivi il giudice stabilisce non ha diritto a risarcimento. È stata picchiata per 24 anni, ma non denunciando mai il fatto, ha tollerato la condotta del marito. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il Dalai Lama d'Occidente. Questa è una delle migliori, mi fa sentire bello importante, il Dalai Lama, e ride Peter Bescapè. Saluto tutti coloro che si stanno mandando WhatsApp, che è letteralmente impazzito al 349-238-6666. Saluto Marco da Istanbul, Gian ci ascolta da Malta, un altro ascoltatore da Lione, non si firma, c'è chi ci scrive io dalla Val Camonica che non mi risulta ancora all'estero, o Federico da Malpensa. Ma va benissimo, Malpensa, forse all'estero ci sarai tra poco, caro Federico. C'è anche un ascoltatore disperato che dice vi ascolto da Salerno, poi oltre Eboli, e il segnale di Radio 24 dopo Eboli si ferma. Radio 24 si è fermata a Eboli. Caro ascoltatore, no, ma abbi fede e seguici. Vedrai che magari funzionerà. Dai. Allora, a proposito di quelle zone lì, il caso Campania, il caso De Luca. E oggi ancora sui giornali ci sono dettagli che inguaiano il governatore della Campania. Intanto questa intercettazione che è uscita, nella quale Manna, Guglielmo Manna, colui che secondo la procura brigava per avere un posto nella regione Campania in cambio di una sentenza favorevole a De Luca, sentenza che avrebbe scritto la moglie di Manna, il giudice Scognamiglio, Manna dice in questa intercettazione: ora voglio parlare con lui, voglio sapere che ne pensa, voglio una risposta, perché o mi nomina direttore generale o lui perde la regione. Questo è il senso di quello che diceva Manna. Io perdo e non divento direttore generale, ma lui perde. Io perdo 5, lui perde 100 e vediamo chi si fa più male. Io non faccio il direttore generale, va bene, però tu non farai il presidente della giunta regionale. Questa conversazione non era con De Luca, si badi bene, era con un'altra persona, era per spiegare. Allora, faceva millantato credito oppure diceva cose che non era in grado in realtà di controllare. Però questa è l'intercettazione che diventa il titolo di tutti i giornali. Non faccio il direttore generale e lui non farà il governatore. Così Guglielmo Manna parlava con un'altra persona a proposito di un presunto accordo che c'era con collaboratori di De Luca o con De Luca stesso. Beh, per il momento De Luca ha trovato il colpevole. Ieri ha parlato con Il Mattino e ha scaricato praticamente tutta la colpa su Nello Mastursi, cioè il suo ex collaboratore, ex capo della segreteria politica, colui che si è dimesso 2 giorni prima che scoppiasse il putiferio dell'inchiesta in maniera pubblica E De Luca dice: per quanto mi riguarda, il fatto non esiste, non so niente. So solo che Mastursi aveva l'obbligo di informarsi, di informarmi. Il suo è stato un comportamento sbagliato in maniera grave. E infatti non c'è più. Ma De Luca ha usato parole ancora più dure nei confronti del collaboratore. Mastursi non c'è più, lavorativamente parlando. Poi ridacchia. Per carità, non sarebbe una grande perdita neanche se raggiungesse, diciamo, e guarda il cielo. Beh, addirittura De Luca praticamente dice potrebbe anche morire. Ma per carità, non dica così, fanno sapere i giornalisti del mattino. Ma sì, ma tanto starà già toccando ferro. E comunque chi mi assedia riceverà secchiate di olio bollente in testa. Questa è la posizione di De Luca, che dice: Mastursi non mi ha mai segnalato manna, ma ha sbagliato, ha commesso un errore grave. Non è Winston Churchill, non è Camillo Benso di Cavour. Sono tranquillo, e per quel che riguarda la sua fama, sono contento della sua fama, anche se è un infame. Insomma, De Luca parla così del suo più stretto collaboratore fino a qualche giorno fa. Come dire, ha sbagliato solo lui. Renzi nel frattempo sta in totale silenzio. Renzi dribbla il caso De Luca, era a Malta, gli chiedono una domanda: Renzi, possiamo chiederle di De Luca? E lui, come racconta la stampa, si appella alla clausola dell'extraterritorialità e dice: ma dai, a Malta mi dovete chiedere di De Luca. Certo, però in Italia tornerà domani. Parla di lui Orlando, ieri era ad un incontro al Corriere della Sera, e Orlando, ministro della giustizia, dice qualcosa in più. Dice: io in campagna avrei sostenuto un altro candidato, però, e fa un sospiro, non dimentichiamo che De Luca ha vinto le primarie, è stato riconosciuto come portatore di buon governo. Certo, questo caso campagna prima o poi esploderà. Mentre ieri c'è stato un caso politico con Berlusconi, che è andato a porta e ricomparso da Vespa dopo un po' di tempo, e ha lanciato, come dire, un caso abbastanza clamoroso, perché ha detto: nel patto del Nazareno, che poi è naufragato, Renzi mi aveva promesso di rivedere la legge Severino a mio favore. E ovviamente, apriti cielo, Renzi ha reagito dicendo: è in affanno e racconta barzellette, è una cavolata totale. Questa è il retroscena di Maria Teresa Meli, un Renzi infuriato, un Renzi che dice: vedrete che ora smentirà. E in effetti nel giro di qualche ora il caso un po' si sgonfia in serata, perché la stessa Forza Italia è costretta a precisare, o meglio a una smentita vera e propria, perché, racconta il Corriere, rischiava di diventare questo un boomerang per lo stesso Berlusconi. Significava ammettere che in politica è mosso da un interesse personale a risolvere i propri problemi giudiziari. Il caso, insomma, un po' si sgonfia, però per qualche ora Berlusconi, dopo aver detto questa frase, insomma, nel patto del Nazareno c'era la promessa di cambiare la legge Severino, Renzi dice: non gli ho mai promesso nulla del genere, e lui sa benissimo. Per il giornale però rimane ancora: Berlusconi rivela in TV, ecco tutta la verità sul patto del Nazareno. Anche il Fatto Quotidiano: Berlusconi confessa, il Nazareno era per salvarmi. La vicenda però, ripeto, un po' si sgonfia, il caso si sgonfia. Non si sgonfia WhatsApp, caro Mauro Meazza, abbiamo lanciato questa cosa di WhatsApp, sta succedendo il putiferio, vuoi anche tu? Buongiorno, ma a parte che aspetto prima o poi l'incursione di Angelino che chieda, sì, che è WhatsApp, però... No, cioè, attenzione, c'è anche questo messaggio, te lo leggono: Jeden Morgen aus Nürnberg stende ich mitalino Milan auf. Guarda, io il mio tedesco purtroppo è troppo arrugginito. Michele, ho capito, sono Nürnberg, e quindi Norimberga. Va bene, ascoltatori anche da Norimberga, peraltro non so se tu vieni doppiato in tedesco allora. Non lo so, però c'è gente che ci chiama, sai che su WhatsApp si possono fare le chiamate. Non vi rispondo, cari ascoltatori, non vi rispondo. Guarda, se comunque hai questo sistema di traduzione, magari sì, allora potrebbe esserti utile per aiutare i parlamentari che devono decidere all'interno della legge di stabilità sull'ennesimo pasticcetto dell'IMU. Perché, come trovi oggi sul Sole 24 Ore, c'è questo caos sul salva delibere, cioè sì, ci sono 866 comuni che hanno approvato delibere in ritardo rispetto ai tempi. Sì. Però si confidava in una norma di sanatoria, però questa norma non si riesce a fare. Se si fa una legge di stabilità arriva tardi, insomma, che ti devo dire, mi ci vorrebbe mezz'ora. Leggi Gianni Trovati oggi su Sole 24 e ti spiega tutto di questa norma. Poi vorrevo fare gli auguri, mi associavo agli auguri a tuo fratello per il suo compleanno. Molti, grazie, grazie. Molti cari auguri. Oggi venerdì 13, non alle 13 ma alle 12 è convocato un consiglio dei ministri. Sei sicuro di dirlo ancora venerdì 13? Ma io non sono particolarmente superstizioso sul venerdì 13, al contrario della tradizione anglosassone. Ma visto che sei internazionale, ti ascoltano un po' da dovunque. Sì. Anche da Mosca salutiamo Ivan. Non so se mi stanno coglionando o mi scrivono tutti. Non lo so. Ivan da Mosca, ciao. Diciamo che il sospetto comincia a venire. Io dal messaggio in tedesco avrei già avuto qualche perplessità. Fammi continuare, che ci sono tante cose importanti da segnalare. Continua. Consiglio dei ministri, importante perché aspettiamo il varo delle norme sul bail-in, i salvataggi bancari, con le nuove disposizioni che quindi coinvolgono azionisti e obbligazionisti in caso di fallimento della banca. E poi domani ritorniamo su questo tema con Plus, naturalmente, che tu leggerai scrupolosamente. Sì, sì, Plus domani, sì, con il Sole 24 Ore. Poi, importante, lo vedi nelle pagine di norme e tributi, ci sarà anche un decreto sulla depenalizzazione, quindi una riduzione di alcuni reati, una riduzione solo a sanzioni amministrative, ma trovi tutto nelle pagine di norme e tributi. Però, dove scoprirai anche... No, perché mi arriva anche un passe le bonjour à tout le monde. Vabbè, allora oramai si ti stanno congelando, allora vuol dire... No, ti giuro, no, c'è anche un messaggio da Brighton con un numero inglese, quindi salutiamo a Brighton che ci sta ascoltando. Guarda, pensaci, in questo fine settimana non c'è neanche il campionato, sì, sei esatto. Sereno, sarai sereno, stai sereno, caro. Un altro numero inglese da Londra, Antonello, salutiamo Antonello. Va bene, prepariamo comunque una rassegna di saluti in tutte le lingue, almeno in quelle più parlate nel mondo, così possiamo. Io mi limiterò al mio saluto in italiano, non prima però di averti detto che ci sono delle semplificazioni importanti per l'e-commerce dal punto di vista fiscale. Le trovi naturalmente sulle pagine di norme e tributi. Sì. A questo punto ti lascio. No, perché c'è anche, scusa, un meazza ti amo, giuro. C'è un saluti da Eindhoven, il numero è 0031, quindi è olandese. Adesso, salutiamo Eindhoven. Ma non è che se stanno prendendo in giro te, allora devi coinvolgermi in questa cosa. C'è Matteo che ci saluta dalla Repubblica Democratica del Congo. Guarda, io in questa selva di saluti ho il mio abituale saluto. E allora, buona domenica, buon fine settimana a tutti, ma soprattutto traffico! Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Oh, allora, no, ve lo dico, non riesco più a star dietro WhatsApp. Abbiamo fatto un errore, forse? No, non lo so, no, è una cosa bellissima. Continuate a scrivermi, ogni due secondi arriva un messaggio, mi scrivono... Da Valmontone, dalla Padania, qualcuno mi dice. Mi scrive anche Lorenzo da Mosca, che ci ha anche chiamato. Lorenzo, è vero, il numero è moscovita, però non ti rispondo in diretta, abbi pazienza. Da Hamburgo, un po' da tutto il mondo, ma d'altronde avevamo fatto, no, il giro del mondo ogni giorno. Ciao Italia, ve lo ricordate che ogni giorno chiamavamo qualcuno che ci ascolta dall'estero? Magari riprenderemo anche questa cosa. Allora, saluto tutti via WhatsApp al 349-238-6666. Noi abbiamo anche una segreteria telefonica, ma qui dovete chiamare, fatelo. C'è chi mi dice: come faccio a urlare il mio traffico come meazza? Devi chiamare questo numero 02 4652 4492, è la nostra segreteria telefonica, potete mandare le sigle e fare quello che volete. Allora, continuiamo la lettura dei giornali. C'è questa vicenda, questa inchiesta che i ROS hanno portato avanti, i carabinieri dei ROS antiterrorismo, e che è abbastanza inquietante, perché tra Bolzano e Merano è stata trovata una pericolosissima cellula terroristica islamica che negli ultimi 5 anni ha aiutato almeno 10 combattenti a raggiungere l'ISIS, con l'ambizioso obiettivo di instaurare anche in Kurdistan iracheno lo Stato islamico. La cellula altoatesina, come racconta Repubblica e raccontano tutti i giornali, ma ho letto l'inizio dell'articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci su Repubblica a pagina 2. E tra l'altro, in questa rete europea con base a Merano, uno dei protagonisti era questo signore Abdulrahman Nawroz, alias Mala Omar, alias Halo, alias Tarani, alias Sarzabi Nanasrav, alias Omar Shezuri. Un uomo tranquillo a Merano, che viveva con tutti questi alias, diceva di essere un profugo curdo in attesa di riconoscimento. Una persona gentile, dicono ora gli italiani che vivevano vicino a lui, lo incrociavano, vestiva all'occidentale, anche con un certo gusto, la barba lunga durante il Ramadan, ma chi poteva immaginare, dicono ora. Ebbene, questo Nawroz era considerato il reclutatore di martiri della guerra santa. Un po' da mandare in Iraq, un po' da farci chissà cosa. Tra l'altro, Valentina Errante e Cristiana Mangani sul Messaggero, lo faccio vedere in diretta anche su Periscope, da questo momento siamo in diretta su Periscope, dicono e scrivono che il reclutatore di Merano prendeva il sussidio, era pagato da noi, o meglio dai servizi sociali della città di Merano, totalmente. Il reclutatore di Merano prendeva il sussidio dalle istituzioni italiane. Evviva, evviva, evviva. Un episodio invece di cronaca che inquieta e sul quale bisognerà approfondire è l'apertura del Corriere della Sera, ma la vicenda è raccontata da tutti i giornali. 4 coltellate ieri a un cittadino ebreo con la kippah, quindi vestito con abiti degli ebrei ortodossi, a Milano. Perché inquieta? Perché sapete che in Medio Oriente, in Israele, sono tanti episodi del genere e quindi il timore è che questo cittadino israeliano sia stato colpito in strada alle spalle, che è stato colpito in strada alle spalle al volto, è stato colpito in virtù del fatto di essere appunto ebreo e quindi come succede in Israele. È successo a Nathan Graf, 40enne, ebreo osservante, riconoscibile proprio dalla kippah, genero di uno dei rabbini di Milano. 4 coltellate, ebreo con la kippah aggredita a Milano. Ovviamente bisogna capire il movente, ma il timore è questo, racconta il Corriere della Sera. Quanto manca? 1 minuto e mezzo? Beh, io ieri ho provato una soddisfazione incredibile. Ah, vedere oggi sul giornale quei volti di quegli antagonisti, di quei black bloc, come dobbiamo chiamarli, quei deficienti, come dobbiamo chiamarli, quelli che al giorno dell'inaugurazione dell'Expo hanno devastato Milano, ve lo ricordate, incendiando macchine, bruciando cassonetti, spaccando vetrine, vi ricordate? Li hanno beccati. Oh, dopo mesi di indagini guardando tutte le telecamere, li hanno beccati alcuni di questi, i video dei cittadini, le analisi del DNA, le prove contro i devastatori di Milano. Eccole qua le facce. Le facce, alcuni sono greci, alcuni sono italiani, le facce, ah, vederli lì presi, beccati. Che goduria da ieri. Come sono felice, i video dei cittadini e le analisi del DNA aiutano a beccare i black bloc devastatori di Milano. Come un bicchiere d'acqua fresca nel deserto questa notizia. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, non ci credo. Una pagina sulla fine dell'amore tra l'onorevole Laura Ravetto e l'onorevole Dario Ginefra. Lei Forza Italia, lui PD, perché è finito l'amore, la Ravetto l'ha scritto su Twitter, sono single, e allora lui ha affidato alle colonne di un giornale a dire no, la amo, torna. Il giornale, una pagina, finisce l'amore bipartisan tra tweet e frasi al veleno. Ma chi se ne frega?